mi sembra fosse il 1996 o il 1997, alla facoltà di sociologia avevamo fondato Orma Nomade, un collettivo cyberfemminista che, per quel che ne capivamo, voleva dire che sostenevamo la necessità di far uscire la lotta contro il patriarcato dalle limitazioni imposte dall'identità di genere e dal concetto di identità in generale, un concetto che, sebbene fino ad allora avesse costituito un fulcro imprescindibile per la rivendicazione dei diritti, per noi rappresentava uno strumento normativo da superare. Ci piaceva pensare il post-patriarcato proprio come la liberazione dagli obblighi identitari. Insomma, si spipponeggiava di queste cose e si giocava narrativamente con la fantascienza, il cyberpunk e il concetto di cyber organico, proprio per raccontare la molteplicità delle forme di vita che sentivamo di incarnare. E un giorno decidemmo di andare a conoscere quelli di Havana BBS al Forte Prenestino. La loro riunione settimanale si svolgeva in una stanzetta vicino all'ingresso, piena di fumo. Parlavano quasi solo gli uomini, e parlavano tantissimo, mischiando discorsi tecnico-pratici a pipponi filosofico-politici. I due piani procedevano di pari passo: crimpare, cablare, Mr. Tuttle, multiple name, democrazia diretta, blue wave, interfaccia, reddito di cittadinanza, metaverso, hacking, rizoma. Mezzo e messaggio si identificavano sia narrativamente sia praticamente. Partecipare alla BBS voleva dire scaricarsi i pacchetti di dati a cui chiunque poteva contribuire, voleva dire entrare in una rete con un proprio avatar, un modo per navigare di fuori dei limiti di quell'identità che ci stava così stretta. Eravamo agli albori della telematica in Italia e cercavamo di contribuire a determinare cosa questa dovesse diventare. Oggi i concetti di democrazia diretta e reddito di cittadinanza sono perorati da un movimento politico dalle declinazioni impervie, ma forse il fatto che quei concetti, dopo tanto tempo, siano promossi da gente tanto diversa, vuol dire che in fondo erano corretti.